It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è ammorbata da pesanti miasmi, K e Drago raccolgono le confidenze nel pollo in sbattimento. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Allora, Pollo in sbattimento, cos'è che ti affligge? Stavolta sono stato tradito negli affetti. No, ma poverino, ma cosa è successo? Voi dovete sapere che io una volta ero un negoziante di dischi. Sì, lo sappiamo, vendevi solo dischi tedeschi di sperimentazione. Krautrock. Krautrock, sì. Sì, cose come Jäger und Sieben Jäger di Popol Vuh, o Schwingungen. Com'è? Schwingungen. Ah, Schwingungen, di quello degli Ashra Temple. Ah, ecco. E Schwingungen poi è un bellissimo album, è del 72, che poi è l'anno d'oro del Krautrock. Va bene. Il 72, sì. Ma cosa c'entra tutto questo con il fatto che ti senti tradito negli affetti? Un attimo. Lascia che finisca il preambolo, no? Ah, ok, ok. Perché io, cioè, oltre al crowd rock, ho altre passioni, Sì, lo spero. Ad esempio, mi piace un casino la musica di fine anni 70, inizio 80. La new wave, il post-punk. Tipo, tipo gli Stranglers, gli Ultravox, Elvis Costello, l'XTC, e poi lui. Lui chi? Lui, no? Joe Jackson. E lui è il mio super preferito, Joe Jackson, vabbè. Sì, d'accordo, Joe Jackson, stempiato a 23 anni, lo conosciamo, sì. Spilungone, Joe Jackson. Sì, però continuo a non capire. Sì, forse era perché ha il becco come un tradito. Un attimo, ma avete fretta? No, vabbè. Non stressatemi. Ah, ok. Intanto è mezzanotte. Mezzanotte. Quindi è inutile che ti agiti, tanto qua non è mai tardi. E più tardi di quanto sembra. Insomma, sì. Più tardi di quanto sembra, quindi. Allora. Joe Jackson ha scritto una bellissima canzone che più o meno conoscono tutti, che è nell'album Night and Day dell'82. E si chiama. Si chiama Stepping Out. Ma non è Stepping Out. Stepping out. Adesso cerca di correggere la storia. Bravo. Intanto Joe Jackson è un bastardo. Ma come adesso? Joe Jackson è un bastardo. È il super preferito, esatto, un bastardo. È il tuo idolo. Mi spezza il cuore dirlo. Ma Joe Jackson è un vero bastardo. Ma perché? Perché non può fare un pezzo che si chiama Stepping Out. Scusate, Stepping Out vuol dire ammazzate tutti i polli, tutti i cigni, tutti i piccioni. Sì. Scusate, il mio idolo ha fatto lì lo Stepping Out e io me ne accorgo solo adesso. Adesso sono distrutto. Secondo voi cosa faccio? Vado in sbattimento. Vabbè, ma prendi la paroxetina. Perché secondo te non l'ho ancora presa. L'ho già presa, ma oggi non fa effetto. Sono troppo in sbattimento. Ma guarda che è Stepping Out. È Stepping Out. No, guarda che non ti sbagli. Ho detto che è Stepping Out, ammazzare i polli. No, ma Stepping Out, uscire, andare via, uscirsene. Ma dalla... perché volete cambiare le carte in tavola? Ti indoriamo un po' la pillola, insomma. Ma qui c'è poco da indorare. Questo è Stepping Out e questo è un bastardo. Ammazzare i polli, perché? Stepping out, uguale, canta pollo, cantiamo, è meglio che cantiamo, stepping out, così. La vita rovinata, come mai? Le truppe di sterminio arriveranno, lo sai, e per te saranno guai. Stepping out tonight, baby, stepping out. Camera gas, mezzanotte è l'ora del cibo indigesto ed è l'ora in cui, lungo le vie più trafficate, compaiono i templi del cibo indigesto. Questa è la notte dello chef, come la chiamo io. Di solito lascio che la fame e il sonno distraggano i clienti del chiosco da quello che gli cucino. Ci sono sere in cui faccio dei panini così cattivi da meravigliarmi che nessuno diventi blu in faccia sfasciandosi sul marciapiede, o magari cerchi di cavarmi le corna con le chiavi della macchina, ho vendetta. Al massimo ho rimediato qualche insulto, ma né io né loro siamo mai finiti al pronto soccorso per una delle mie salamelle. Però ogni tanto, quando la notte e il mio umore non sono troppo freddi, decido di mettermici d'impegno. Ed ecco che mi ricordo di una cosa straordinaria. Io i panini li so fare da Dio, ma davvero. In queste sere dello chef lascio perdere il prosciutto che servo di solito, quello coi bordi rosicchiati di verde e che sa un po' di saponetta. Butto via le salse scadute da mesi, controllo che la temperatura delle birre sia giusta e mi metto all'opera. Faccio panini abbondantissimi, croccanti, farciti con roba di prima qualità. Li servo avvolti in tovaglioli tripli e sorrido in continuazione. E sono felicissima. Sì, perché mi accorgo che non cambio un cazzo. Arrivano le stesse facce tagliate in due dalla violenza di sempre, che mi dicono esattamente le cose di quanto mangiano carne marcia. Chi offese, chi complimenti, chi discorsi a vanvera. E amo la notte dello chef, perché tutte le volte che ho un dubbio su quale sia, oltre ai soldi, lo scopo del mio lavoro, lei me lo risolve immediatamente. Oltre ai soldi, nessuno scopo. Sai che effetto fa la mezzanotte in una città del mezzogiorno? Confonde le onde radio con il mare. La fabbrica di New Age Management. Si arriva in ufficio, si è rimasti calmissimi in macchina, nonostante quelli che passano davanti, quelli che passano di fianco, quelli che passano di dietro, niente. Nel CD, nel lettore CD della macchina, si è ascoltato un disco di Vishwa Mohatbat, di Ravi Shankar, di Zakir Hussain, di Khalilok Gurtu. Quindi si arriva in ufficio rilassatissimi, si entra in ufficio, ci si toglie le scarpe, ci si toglie le calze, si scende nel cortile dell'azienda e ci si fa vedere da tutti camminare a piedi nudi sul prato. E siccome poi c'è sempre qualche dipendente che mette le puntine da disegno oppure le cacche del cane sul prato, quando ci si sporca i piedi o ci si punge con la puntina, si fa vedere a tutti i dipendenti che non si rimane scossi da questa cosa. Si torna in ufficio, si sporca tutta la moquette o tutto il parquet con la cacca o col sangue che è uscito dopo la puntura della puntina, si chiude la porta e si dà un cazzotto fortissimo sulla scrivania. Poi si prende il telefono, si chiama l'ufficio del personale, si licenziano tre dipendenti, si chiama l'autista, ci si fa venire a prendere e ci si fa portare a casa. New Age Management. Che cosa succederà adesso? Quali effetti produrrà il New Age Management sull'andamento della fabbrica di polli? Lo scoprirete domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo olistico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bar Lumen.